Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sei talmente attaccato alla nazionale, te lo costringerei a passare la prima notte di nozze con te, se lo lasci con la moglie almeno stasera. Ma fosse per me, Destro doveva tagliare la torta e tornare subito al ritiro, quindi non. Poi, valutando un pochettino il più e il meno, lasceremo qualche ora a Mattia e alla moglie. E poi ci sarà una macchina che lo porterà qui a Coverciano. Volevo farti un grosso in bocca al lupo per la tua prima puntata di Titaca. So che presto anche tu ti sposerai. Se vuoi puoi farmi un colpo di telefono, così ti spiego un attimo come funziona il matrimonio. E soprattutto so che sei un grosso appassionato di magliette, collezioni molte magliette, quindi se vuoi poi te ne regalerò anche una. Un abbraccio e un saluto a tutti. Pardo? Dica. Mica male, messaggio di Destro. Sì. Per lei. Sì, vedi. È apprezzato, immagino. Ho perso una vita, adesso sono proprio sposo anch'io. Per riempire fra l'altro il vuoto di una pausa di campionato, sono pieno di entusiasmo, ma durante una pausa di campionato. No, invece tu ci hai fregato tutti. Quindi, io vi ho fregato sempre, sempre troppo avanti. Senti, ma vabbè, a parte Cassano testimone, Cruciani ha avuto da ridire su questo, su questa perché? Scelta. No, che dice, un matrimonio con Cassano testimone già è nullo. L'ha detto lui. Ma perché? Non lo so, bisogna chiedere alla Cruciani. Cassano per ora, fino a prova contraria, anzi, testimonial della fedeltà, del matrimonio, della procreazione, perché a quota 2, voglio dire, insomma, uno. Da questo punto di vista meridionale nel senso tradizionale del termine, cioè familista, ecco, il valore della famiglia sacro, quindi no, perché comunque, Cruciani, diciamo, comunque hai visto, sembra un testimone al matrimonio. No, io voglio bene, anch'io lo sai quanto, ma non è esattamente il testimone ideale. 800 24 00 24, se volete parlare di matrimoni affini, ma meglio di no, possiamo parlare anche no, anche no, ma 800 24 00 24, se volete parlare magari del mercato che si è chiuso, magari della nazionale di Conte che rideva come un matto, hai sentito, non riusciva nemmeno a parlare nel raccontare, ok, Destro lo voglio qui, magari lo do un paio d'ora a sua moglie e poi arriva una macchina a prenderlo con le manette e me lo porta. Mercato. Le manette. Che manette. Mercato. Poi ne parliamo anche con Luca Marchetti, con gli ascoltatori, sì. 800 24 00 24, perché oggi è il giorno dei contenti e dei delusi. Secondo te i tifosi del Milan sono contenti o delusi? Beh, i tifosi del Milan secondo me devono essere contenti, possono fare quello che vogliono, ovviamente. È chiaro, il Milan segue delle strade, sono strade latinus, che sono strade, diciamo, di furbizia, ingegno e scamotage. Non è che ci sia proprio una programmazione particolarmente precisa e meticolosa, una strategia negli anni. Però questo è un mercato molto vivo. Insomma, alla fine secondo me il Milan esce profondamente rinforzato. Esce con dei parametri zero che vanno al Milan, perché evidentemente sono ancora sensibili al fascino del club, e questo è un patrimonio che il Milan ha saputo costruire negli anni e del quale adesso in qualche modo riesce ancora a trarre i frutti, perché che Alex o Menes o Diego Lopez siano andati al Milan, secondo me è dovuto anche a questo, soprattutto a questo, è dovuto a una politica degli ingaggi che è comunque una politica da top club, comunque era club medio-alto, e non spende soldi sui cartellini, è una strategia se non per rarissime eccezioni. A me il mercato è piaciuto, il mercato del Milan mi è piaciuto, credo che abbia soprattutto si sia liberato di alcuni equivoci, di alcuni giocatori che non è che fossero tutti da buttare via, certamente avevano talento, ma finivano per essere molto condizionanti. Uno è sicuramente Balotelli, venduto bene, un altro in qualche modo era Kakà, con tutto rispetto per la sua storia e per quello che ancora potrà dare, però non era un giocatore secondo me sul quale poter ma l'ultima storia con Zaccardo, che ha fatto saltare trasferimento di Biabiani al Milan, è arrivato Bonaventura, giocatore molto interessante dall'Atalanta, però qualcosa di diverso rispetto a Biabiani, che secondo me sarebbe stato più funzionale al gioco del Milan. Quest'ultima pezza non è riuscita benissimo, secondo me. Beh, dipende come vuoi giocare. In realtà per ora l'idea è quella del 4-3-3 e sicuramente Inzaghi, ne parlavamo anche ieri sera con Cristian Brocchi a Tiki-Taka, voleva il doppio ruolo, cioè voleva due opzioni per qualsiasi reparto. Secondo me anche il 4-2-3-1 diventa, con questo tipo di schieramento tattico, diventa una possibilità, perché comunque tu hai Honda e Menez che possono fare i trequartisti, soprattutto Honda. Hai una prima punta centrale come Torres, hai gente come Sharawi e lo stesso Menez che possono fare gli esterni offensivi, quindi io non sottovaluterei questa ipotesi. Bonaventura lo vedo più come intermedio centrocampo, appunto, che come esterno offensivo. Era l'esterno offensivo quello che serviva al Milan in questo disegno, la pedina che mancava. È stato aggiunto un giocatore, il Milan ha bisogno dappertutto, poi voglio dire, intendiamoci, per quali piani, per quali obiettivi, per quali correre, per che cosa, questo non è chiarissimo, però aveva bisogno di innesti un po' dappertutto. Bene Bonaventura in un centrocampo che è povero di talento e di piedi buoni in questo momento, con Montolivo ancora all'ospedale o ancora in riabilitazione, però certamente dal punto di vista offensivo quello che serviva era chi metteva la palletta in mezzo. Poteva essere Biabiani, non è arrivato, ne è arrivato un altro. Credo che la grande bocciata, sono grosso modo d'accordo con le pagelle che vedo un po' ovunque nel mercato, e tra poco le facciamo anche con Luca Marchetti, oltre che con Pardo le pagelle. La grande bocciata di questa sessione estiva di mercato è il Napoli. Convocati. Ma che mentalità è questa vostra? Se non si scoprono le vostre magagne, per voi è come se agiste rettamente. No. Il problema è economico. Dall'altra parte il Nino, Torres si gira! Ah! Un gol bellissimo! È il Nino! Solo lui può fare un gol così! La gente se ne frega che glielo chiediamo, vuole solo che noi provvediamo. Bravo. Campione d'altruismo. Il cross sul secondo palo, Bonaventura! Giacomo! Jack! Bonaventura! E 2-0 Atalanta! Ho raccontato i fatti. Voi fate esperimenti. Io racconto fatti veri. Ma l'ho visto ieri, l'ho notato ieri. Essendo al 29esimo raduno, credo di riuscire a percepire l'aura che si respira a Milanello. Bene, ieri ho visto un ambiente caricatissimo, un ambiente determinatissimo, un ambiente coeso attorno a Pippo. Tutto Milanello è ritornato, il Milanello di una volta, il Milanello, chiamo Milanello tutti coloro che entrano appunto nel nostro centro di allenamento. Io ho respirato un'aria molto molto positiva. Sì, l'aria di Milanello e tutto quanto. Una volta la respiravano però altri giocatori, la respiravano Gullit e Van Basten, la respirava Savicevic e Boban, la respirava Ibrahimovic, la respiravano questi qua. Poi il Condor si diverte, secondo me. Poi questo è come quando presentano il nuovo CD o il nuovo film, gli autori e i registi dicono sempre: questo è il mio film uscito. Non c'è mai uno che ti dice: allora, no, questo è un film che fa veramente... Pierluigi. Sì. Abito completo grigio, su camicia in tono sciarpa celeste al collo, occhiali anche quelli sul grigio, di quelli che vanno di moda adesso, è arrivato chi? Cruciani. Ma come hai fatto a indovinare? Signor Pardo. Beh, già è tutto finito. Lo sai che è tutto finito, no? Cosa? Allora, il fatto che voglio ripetere la cosa che ho detto ieri alla Zanzara, che ripeterò stasera fino all'infinito, fino a quando si celebrerà questo scempio. Allora, il secondo scempio. La tesi è questa. La tesi è molto semplice, signori dimmelo tu, che lo stop, lo ascoltatori fermo. Tanti per fortuna tutti convocati. La tesi è questa. No, non fermatemi che tanto c'è la conferenza episcopale, adesso entreranno le frequenze di Radio Maria a coprire questo infedele. Dica. Allora, la tesi è questa. Siccome sai che si parla da tempo, caro Pierluigi, tu sei favorevole al matrimonio omosessuale, eccetera, favorevole perché tu sei progressista, sei de sinistra, come si dice, no? Progressista. Sei progressista. Riformista, vabbè, adesso devi edulcorare. Sono riformista. Anche nel calcio sei riformista. Anche nel calcio? Beh, sì, sei anti-Tavecchio, sei anti-Tavecchio. Vabbè, ci vuole. Ero anti-Tavecchio all'inizio. Io anch'io, come me, adesso invece sono abbastanza Tavecchio. Secondo me, ragazzi, voglio sentire. No, aspetta, voglio sentire. Allora, Cruciani che finisce il suo discorso e voglio parlare con Luca Marchetti. Allora, di mercato. Sì, certo, Luca Marchetti, persona serissima. Allora, la tesi è questa. Essendosi celebrato il matrimonio del signor Carlo Genta, qui presente di fronte a me, in quel di Las Vegas, cioè si è sposato tra l'altro, secondo matrimonio a Las Vegas, con una gentilissima, simpatica, molto bella imprenditrice ucraina residente a Mosca, e dunque matrimonio a Las Vegas, come dire, obbligatorio per questioni burocratici, eccetera. E dovendosi celebrare il giorno 11 di ottobre il matrimonio del signor Pierluigi Pardo con testimone di nozze, roba d'annullamento immediato presso la Sacra Rota, presso qualsiasi autorità ecclesiastica, politica, militare, il matrimonio di Pardo con testimone, ripeto, Cassano, signor Cassano, testimone di nozze, tu sai che il matrimonio verrà annullato sicuramente per il fatto che Cassano è tuo testimone. Allora dico, ma ragazzi, ma che aspettiamo? Cioè, si è sposato gente a Las Vegas, si sposa Pardo con testimone Cassano, ma altro che matrimoni, che bisogna autorizzare il matrimonio tra uomo e animale qua, ma ragazzi, questa è la tesi, cioè è questo che bisogna portare come prova del fatto che ci vuole il matrimonio gay. Perfino gente a Las Vegas e perfino Pardo, testimone Cassano, si sposano, tutto qua. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Ah sì, certo, saranno pure fesserie, però è la prova provata che ci vuole il matrimonio gay, che altro che matrimonio gay. Luca Marchetti, ci sei ancora? Aspetta, no, perché magari va via. Ci sono e credo che a questo punto tocchi a Cruciani sposarsi. Esatto, attenzione, questo caro Luca, lo possiamo escludere nei corridoi del mercato, si dice anche questo. No, direi che con la terminologia del mercato le probabilità che ciò avvenga sono molto molto molto molto basse, diciamo. Però la sciarpa abbiamo avuto in questo ma la sciarpa, che vuol dire la sciarpa, le fidanzate, le amanti, tutto ci possono essere, ma il matrimonio è un'altra cosa, amico mio. Ma mi hanno fregato una volta, non è che posso essere rifregato ancora. Vedi. Luca, sei sposato tu, a proposito? Sì. Che hai fatto lo spiritoso? Sì. Sei sposato. Ma che ti sei sposato? Vabbè, adesso riparate del mercato. Che diciamo, è finito il mercato. Il mercato è finito. Che te l'hanno detto? Sì, è finito ieri sera al 23. Ho seguito con grande attenzione Marchetti, che si è fatto un mazzo così. Seguito ogni giorno fedelmente su Sky Sport 24, e non me ne volere, caro Pardo, ma te ne sei andato da là e adesso io seguo Sky Sport 24. Ma ieri sera c'era la prima puntata di Tiki Taka. Quello ero là, lo sai che Tiki Taka, non mi puoi toccare Tiki Taka. Verticale, divisiva. Sempre molti uomini hai in trasmissione, lì a Tiki Taka. Brutte donne, molti uomini. Io saremmo stati 9 ieri, di cui 7 uomini, e tu che ti chissi sulle due donne, la signorina Barra e la signorina Santa. Ecco, barra satta. No. Senti, mi fate parlare di mercato con Marchetto, dobbiamo andare avanti così. Vabbè, andate avanti. Posso parlare di mercato con Luca Marchetti? Vai pure. Allora, Luca Marchetti, l'ultimo colpo l'ha fatto chi? È finito. Sì, chi l'ha fatto l'ultimo colpo secondo te? Ma che domanda? Milan con Bonaventura o il Verona con Saviola? Quello è buono, sì. A me Saviola piace, come colpo romantico piace Saviola. Il Verona ha due giocatori ex Barcellona che hanno giocato insieme. Il calcio italiano l'ha risollevato il Verona quest'anno. Il Verona è quello che ha portato in Italia i due giocatori più importanti. Marquez e Saviola. Torres, Torres, no. Sì, vabbè, tre sono andati al Milan, questi altri due sono andati al Verona, probabilmente non sarebbe mai aspettato nessuno, no? Che due giocatori di questo nome potessero tornare in Italia in una squadra come il Verona, che è una provinciale. Il Milan ha preso un giocatore in prestito, di fatto, quando poi ha venduto Balotelli. No? Mm. Sì, sì, sì, sì. Poi ma secondo te è più finito Torres o sono più finiti Saviola? Cioè, io uso finito, uso finito. No, uso finito e poi tu puoi dire in parabola discendente. Però ecco, è più finito Torres oppure Saviola Marquez? Secondo me è il primo. Oppure Richards, quello che ha preso la Fiorentina. Vabbè, che quella è un'altra cosa, quello che io conosco. Dai, solo Marchetti. Ma come? Chi lo conosce? Chi lo conosce? Solo Marchetti, solo Marchetti. Era il nuovo grande pilastro della difesa inglese con Mancini. Ma lo conoscete voi, dai. Ma no, lo conosciamo noi. Ha giocato 9 partite negli ultimi 2 anni. Per io ieri ho visto un nero all'aeroporto, per me poteva essere pure il fratello di Optipo Bala, vecchio. Ho visto un nero lì all'aeroporto, riccioluto nero, come tutti. È una svolta progressista questa ricostruzione. No, nero, lo dico anche negro, però il problema ma una volta mai. Una volta tanto, sì, hai ragione, però il problema è che se vedi quello che è arrivato alla Roma e quelli che è arrivato al coso, uno dall'esterno del calcio sembrano uguali, no? Quello che è arrivato alla Roma e quello che è arrivato al calcio, cioè non è che sono giocatori conosciutissimi, magari sono fenomeni, però per chi vede dall'esterno e uno dice vai su Scalpore 24 e vedi tutti gli arrivi, gli aeroporti, i procuratori, la gente intorno, i tifosi. Io dico, perché un tifoso va all'aeroporto ad accogliere Richards? Questo qua, perché? Cioè, uno dovrebbe essere internato, interniamolo. Marchetti, dillo anche tu, interniamo uno che va all'aeroporto in generale, dico, per accogliere un calciatore. Lo vogliamo internare o no? No, non sono d'accordo. Fanno colore, musica, tu sei d'accordo, ma non puoi dire. C'è il presidente Ferrero che l'ha invitati tutti per Berghessio. Berghessio, tanta gente all'aeroporto non ha vista neanche al concerto dei Rolling Stones. Quindi erano tutti lì per lui. Vabbè, comunque, allora, mi dici che è più finito tra i signori di qui sopra? La domanda non era campata in aria. Ma io ti dico, secondo me il meno finito è Rafa Márquez. Te la rigiro così. Vedi che c'è del vero in quello che dico, però. No, Rafa Márquez sì, Saviola dai, Saviola mi sembra veramente una. Però Saviola per il Verona potrebbe essere buono. Però non ha fatto male Saviola, infatti. Per l'Olympiacos. Ha fatto male l'Olympiacos, sì. Sì. Va bene, però secondo me Torres può ancora fare qualcosa, soprattutto per quello che è il livello del calcio italiano che è calato. Ecco, poi sai, ci dobbiamo mettere questo in mezzo, ci dobbiamo mettere questo, che il calcio italiano non è la Premier, non è la Liga, è un campionato molto meno competitivo. No, adesso però cioè, è più competitivo internamente ma non competitivo all'esterno, quindi. Questa storia di Torres effettivamente ha ragione Marchetti, perché per il gioco che fa il Milan, che ho visto fare al Milan sabato, dove sono tornato allo stadio dopo un sacco di anni, domenica anzi a vedere la partita, devo dire la verità che è un gioco molto sparagnino, si sarebbe detto un bel catenaccio e contropiede, insomma, no? Beh, è un Milan consapevole, la difesa 5 è passata, esatto, consapevole dei propri limiti, ma a me è giusto così. È giusto così, certo. Allora, per quel tipo di gioco, se mai riuscirà a praticare ogni partita eccetera, credo che Torres non possa sfigurare per niente, in questo tipo di gioco. E chi lo sa. E comunque Torres ha fatto 11 gol l'anno scorso, ha fatto 23 l'anno prima, decidendo la finale di Europa League, cioè Chelsea Benfica, insomma, non ha la continuità del giocatore del Liverpool, questo anzi al Chelsea ovviamente non ce l'ha mai avuta. Da dov'è collegato, come al so che si sente meglio Marchetti, come di Pardo, che è co-titolare di questa trasmissione, una cosa pazzesca, dov'è? Non ha la continuità anche il telefono di Pardo. L'auricolare, l'auricolare, non si può usare l'auricolare. Ho di venire lì che poi è naufragato drammaticamente. Senti, la signora, prima di salutare organizzazione del matrimonio. Ma che signora! Prima di salutare Marchetti, Luca Marchetti, lo lasciamo andare a lavorare mentre noi facciamo tutt'altro. Io volevo un suo giudizio e un suo voto sul mercato della Lazio di Cruciani. Ma che a me piace, ma a chi se ne frega? Anche a me. Ma secondo me la Lazio di Cruciani ha avuto un mercato più che sufficiente rispetto a quello di cui aveva bisogno. I due difensori sono arrivati, Parolo per me è un giocatore importante in Italia, Giorgovic è un buon attaccante, peraltro preso a zero. Secondo me è stato un buon mercato quello della Lazio. Io l'ho detto in diretta l'altro giorno da Pioli, che forse non ha capito bene quello che avevo detto perché era arrivato in ritardo. Mediaticamente sembra meno roboante, perché la Lazio ha fatto tutto a luglio e nel mese di agosto non è venuto il colpo, un po' come l'Inter. Ti rimane più impresso il mercato del Milan perché ha fatto tutto negli ultimi 3 giorni, però insomma come al solito. Sì. Inter e Lazio però secondo me non si sono mosse male. No, detto questo, a Milano la Lazio, sto passando alle cose poi ai fatti, ha giocato bene, ma ha voluto fare la partita, la cosa incredibile, cioè sembrava che giocasse in casa la Lazio, adesso non so il possesso palla, non mi ricordo quanto è stato, ma insomma è una squadra che vuole fare la partita, che però non ha il colpo vincente, questo un po'. Beh, ho trovato un grande limite in questo, e poi De Vrij abbiamo visto che ancora prendere un gol in contropiede, perché stai cercando di controllare la partita, in effetti la Lazio lo stava facendo dopo 7 minuti a San Siro contro il Milan, è abbastanza strano, particolare. Sì. Detto questo, io è una partita che mi ha ricordato molto Inter-Lazio della penultima giornata dell'anno scorso, finita credo 4-1, sì, ma nella quale la Lazio aveva avuto 10 palle gol, soprattutto nel secondo cosa tempo, cosa che non c'è stata col Milan, però comunque. Beh, non c'è stata, negli ultimi 20 minuti la Lazio ha messo sotto, sì, il Milan pesantemente, sì, insomma. No. Fa il 3-2 che poteva succedere e poi vediamo come va a finire. A me è piaciuta, dico la verità, insomma. Poi il vero punto interrogativo è dietro, perché Gentiletti ovviamente bisogna capire come si ambienterà in Italia, e De Vrij, che doveva essere la certezza, ha cominciato malissimo. Vabbè, comunque De Vrij è un buon giocatore, lasciamogli qualche... Ma Gentiletti almeno ieri è andato a trovare il Papa? A saperlo. Ma che domanda che... No, è giusto, perché non c'è andato con San Lorenzo, perché il giorno del trasferimento. San Lorenzo è andato dal Papa, lui era a fare le visite mediche. Pardo, questa cosa qui l'ho appresa da Sky Sport 24, te lo voglio ricordare. Questa cosa di Gentiletti che non è andato. Io talvolta li guardo. No, talvolta, sempre, di la verità. Sempre, dillo, confessa. Fatti licenziare, fatti rimproverare le vertici. Abbiamo fatto tutte dirette su... Luca, grazie, chiedo grazie bene. A voi. Ciao Luca. Ciao Luca Marchetti. Ciao. Allora, abbiamo la borsa 800240024. Te ne vai? E che devo fare? Sei venuto qui, hai spaccato tutto. Ma e che adesso devo fare? Te ne vai. Ma più di questo, che devo fare? Paganini, non è che. No, one. Vabbè, lasciamo andare, Pier. Sì, dai, fammi i cazzi vostri. Parlavi del signor Tavecchio. Adesso no, c'è ancora. La borsa. Adesso c'è la nazionale, borsa, Conte, c'è le convocazioni. Qualcosa della nazionale borsa, si può dire, dai, forza, diciamolo, dai. Borsa. Dai, dopo lo posso. Dai. Borsa. Un po' che una palla a Matano, se ne ho messa, 1-1, va bene, ci sta, Buonasera a tutti. Ciao Ilaria. Sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a Marcheggiani e saluto Di Marzio e Boba e tutti i grandi di Sky. Tutti convocati. Dunque, torniamo per... abbiamo trattenuto con la forza e con un panino con la bresaola Giuseppe Cruciani, perché sennò se ne andava, c'aveva fame. Pierluigi, sempre lì? Pardo? Non c'è, ma ti stupisce ancora il fatto che non ci sia Pardo? Sarà collegato da un iperuranio. No, mi stavi dicendo di Balzaretti? Sì, che ha fatto oggi il difensore da Roma, ha fatto una conferenza stampa piuttosto toccante a Trigoria, in cui ha detto che ancora deve guarire dalla pubalgia. Ci vorranno ancora mesi di terapie, ma non mollo, eccetera. Si è spalmato l'ingaggio, prenderà fino a 2 milioni di euro quest'anno. Sì. In realtà ha accettato di giocare oltre il 2015 fino al 2016. Non ti piace? No, io non è che non sono d'accordo. Tra l'altro Balzaretti ha detto: ringrazio i dottori, il club, che non mi hanno mai fatto mancare niente, ha esaltato la Roma, è una famiglia, mi è stato sempre vicino. Insomma, non gioca e probabilmente non potrà giocare. Non è un ingaggio spalmato. Ha deciso di prolungare il contratto agli stessi soldi, prendendo praticamente zero nell'anno successivo. Ma il problema è che bisognerebbe fare come nel football americano, cioè bisognerebbe che i giocatori pagassero per gli infortuni, anche se non è colpa loro. Anche nel football americano, quando ti infortuni, non è che è colpa tua. Eppure i contratti, che sono ovviamente molto consistenti nel football americano, adesso un giocatore degli Houston Texans 100 milioni. Sì, 100 milioni, non so per quanti anni, ma un contratto da 100 milioni di dollari. Però se ti infortuni, paghi, cioè l'infortunio fa parte del rischio del mestiere, e dunque va conteggiato anche quello, 20-25% in meno, 10% in meno a seconda dell'entità dell'infortunio. Sì, la vedo dura in un paese come l'Italia praticare una... Non è solo l'Italia in questo caso. No, lo so, ma mi sembra che i club vanno tutelati dura anche da questo punto di vista. Se un giocatore si rompe, tu hai investito 200, non è possibile che non ci sia una sanzione, parlo di sanzione, una decurtazione dello stipendio da questo punto di vista. Un giocatore si prende il rischio dell'infortunio e se lo deve, non è solo la società che se lo accolla, ma se lo deve accollare anche il calciatore. come libero professionista, tu dici? Assolutamente, assolutamente. Cosa mi dite invece della nazionale di Conte? Perché tutti abbiamo parlato male. Pardo, è tornato. Sì, sto qui, ho anche sentito tutto il discorso sull'NFL. No, ma non è saltato l'NFL, mi sembra un... Sì, no, ma certo, beh, è chiaro il margine di... Ma sai, questo meccanismo, se me lo fai meglio al contrario, cioè con degli stipendi flessibili. Cioè, è brutto, onestamente, che un giocatore possa avere su una base di uno stipendio che è stato di 5 milioni un danno economico, secondo me è brutto, perché si fa male. Lo dovresti fare al contrario, cioè, non dovrebbe prendere 5 milioni e poi perderne 3 se dovresti dargliene 2 e poi, a seconda del tipo di performance che riesce a fare, può arrivare fino a 5. Poi è chiaro che se si fa male rimane con 2 milioni. Che succede? Senti, chi è? Spilla un telefono, chi è? Pronto? Sì, eccoci. Come la zanzara questa. Chi ha chiamato? No, non lo so, stavamo parlando con la regia, stanno arrivando gli ascoltatori che attendiamo. Non lo so, io non sono così d'accordo e convinto su questo discorso, perché come lavoratore dipendente anche noi ci ammaliamo, non è che ci... Ma un altro discorso, a parte che sì, non è vero, dopo un po' lo stipendio viene decurtato anche quello, anche sì, da lavoratori dipendenti. Sì. Comunque, sulla nazionale di Conte cosa mi dite? Cioè, secondo me Tavecchio, che è stato tanto criticato, e possiamo continuare anche a criticarlo, se vogliamo, perché non abbiamo certo appoggiato la sua candidatura, la sua elezione, siamo alla finestra a vedere come riuscirà a rinnovare il calcio italiano, però le prime due mosse sono state corrette. Conte allenatore e Oriali responsabile dell'area tecnica. Sì. Giuseppe. Vai. Pardo, chi vuole? Sì, ma ormai è roba vecchia. Sì, no, sì. Io ieri avevo Tavecchio ospite in trasmissione e qualcuno mi ha scritto che l'intervista era poco aggressiva. Io ho un'idea delle interviste. Per me l'intervista non è lanciare delle pietre alla persona che viene intervistata, tanto più che qui la questione ormai è vecchissima, è una questione per sì, me certo, morta e sepolta. Cioè, questo ha detto una boiata pazzesca che a me non sarebbe mai venuta in mente e che con una sensibilità diversa poteva portarlo a rinunciare alla candidatura, ma parliamo di un mese e mezzo fa. Di questa cosa aveva già chiesto scusa 7 volte, poi alla fine, secondo me, chi pensa che comunque non potesse candidarsi rimane di questa opinione, chi pensa che invece sia stata una battuta sbagliata e l'ha perdonato la pensa così. No, no, ma ha ragione Pardo, cioè... E poi non credo che abbia preso accordi con Tavecchio per non parlare di questa roba qui. Ma no, la domanda gliel'ho fatta. No, ma il punto fondamentale è che a un certo punto è successo quello che è successo, ognuno mantiene la propria idea, doveva candidarsi. Adesso va giudicato per quello che fa, per quello che fa. Punto sì. E basta, non per quella frase sbagliata, anche secondo me, suo tipo, eccetera. Forse è stato anche eccessivamente impiccato per quella frase lì, perché poi comunque un uomo va giudicato per i gesti, anche per le frasi in questo mondo mediatico, per carità, e secondo me doveva rinunciare alla candidatura. Mm-hmm. Però non scordiamoci che nessuno aveva criticato Tavecchio per altre cose, sue del passato, certo, cioè sì, il passato di Tavecchio, che magari è più criticabile di altro, di quella frase lì, nessuno aveva aperto bocca su quello. Cioè, beh, non è proprio così, perché comunque in molti hanno chiesto spiegazioni, sono state delle... No, ma passato io parlo di altre cose. Sì, no, su quelle cose, insomma, il passato di Tavecchio non è stato, certo, stato... Ragazzi, messo io non ho sotto cambiato il tappeto. Idea, ne parlavamo a luglio, non ho cambiato idea. Secondo me, io ho citato De André, sono loro stasera i migliori che abbiamo, cioè il punto è il massimo che la federazione italiana riesce a dare, però qui c'è anche da fare un discorso, scusate, molto banalmente economico. Cioè, questo è un lavoro a tempo con un orario full time, quindi che ti assorbe tutta la settimana e per il quale lo stipendio è 36.000 euro lordi. Poi vabbè, ci sarà il prestigio, ci potrà essere qualche altra forma di indotto che non so, ma comunque 36.000 euro lordi è uno stipendio col quale non puoi pensare di prendere il top manager di una multinazionale o Tony Blair per fare il presidente della Federcalcio. Per cui il profilo è questo qui, il profilo nello specifico secondo me è molto basso. Io la sensazione che mi sono fatta è che Tavecchio non sia razzista, probabilmente viene da un tipo di mondo antiquato, antico, nel quale una battuta come quella delle banane ti poteva venire in mente. A me, come dice Cruciani, sono progressista, riformista, una cosa del genere non mi viene neanche da pensarla. Detto questo, adesso giudichiamolo per quello che fa, anche perché voglio dire, io non l'avrei votato, qui dentro nessuno l'avrebbe votato. Là fuori nessuno votato. L'avrebbe votato, quindi, perché se fosse fatta l'elezione a suffragio universale, no, non mai detto. No, l'opinione pubblica, complessivamente era contraria all'elezione di Tavecchio. Altrimenti, secondo me, rimaniamo in un mondo ideologizzato che non ha senso. Cioè, ormai sta cosa l'ha fatta, l'ha detta, l'abbiamo condannato, abbiamo detto che ha fatto una gran cazzata. Adesso bisogna andare avanti, altrimenti non è che non possiamo dare a questa persona la possibilità che gli dà in questo momento lo statuto, il suo ruolo di governare la Francaccio. Vorrei andare un attimo su un altro discorso, perché mi interessa, no, a parte la convocazione di Conte, questo discorso, per cui già, tra l'altro, penso sia stata anche una mezza promessa di Tavecchio a Conte, non so come e quanto praticabile. Conte ne ha parlato, riduzione del numero degli stranieri in Serie A, secondo me è una è pura demagogia, ma questo è il discorso Conte. Andare a vedere alcune partite di squadre, le prime sette, diciamo, no? Le prime, di prima fascia, dove bene o male si attinge maggiormente, vedere partite dove non ci sono italiani, ce n'è uno o due, è veramente allarmante questo. E penso che bisogna fare tutti una riflessione e capire che bisogna dare comunque più spazio agli italiani. Le riforme che si possono fare, sicuramente ci sono delle persone addette, mi è stato assicurato che si cercherà di aiutare un po' tutto il movimento, perché parlo della nazionale A, ma parlo anche dell'under 21, dell'under 20, dell'under 19. Come la pensate sul punto? Secondo me mettere un tetto al numero degli stranieri in campo impiegabili. Sì, ho capito. Questo qua in Serie A non è possibile farlo, e sarebbe anche ridicolo farlo se vogliamo che le squadre italiane competano con le altre. È possibile fare un discorso che riguarda il numero di squadre professionistiche e il numero di stranieri che si possono impiegare in Serie B, nelle Lega Pro, eccetera, le seconde squadre, squadre B, tutto il discorso su quello che succede in Spagna. Questo sì, questo si può fare, si deve fare, non so quanto sarà in grado di farlo Tavecchio, ma il limite, il tetto che c'è già peraltro sugli extracomunitari, un po' ridicolo secondo me. Perché limitarlo agli extracomunitari? Perché extracomunitari europei? Io sono d'accordo, io sono per la totale liberalizzazione. Io pure, totale liberalizzazione per la Serie A. Per il resto, secondo me, ci vuole una bella riduzione draconiana, in modo da far giocare, ma insieme a una riforma però dei campionati e tutto quanto. Una riforma draconiana con le squadre B e tutto quanto. Detto questo, io non so quanto sarà in grado di farlo Tavecchio, perché per esempio sulle squadre B sappiamo che uno dei suoi padrini, cioè Lotito, ha il 30% del Bari o giù di lì, ed è proprietario anche della Salernitana, per cui non so quanto poi alcuni presidenti vogliono le riforme davvero. No, ma poi per me vedere giocare gli stranieri o gli italiani in Serie A non fa alcuna differenza. L'importante è provare a vedere buoni giocatori, perché io sono contento, l'ho detto ieri, di avere Pogba, di avere giocatori di livello nel campionato italiano, e il passaporto mi interessa relativamente, perché ad esempio nessuno si è mai sognato di criticare il modello dell'Udinese, che proprio su una ricerca di mercato ad ampio raggio e in tutto il mondo ha fondato una politica societaria che è ammirata da tutti quanti. Allora l'Udinese, che diciamo l'Udinese non fa giocare gli italiani, è vero, ma fa benissimo. Ma sì, ma poi aspetta Pier, aspetta che abbiamo il traffico, siamo 14:46, ragazzi, vai, me ne vado, vabbè, ti abbraccio Pier. Culto, grazie. Ciao. A zanzara più tardi. Antonio Conte è una macchina da guerra. Antonio Conte non va a casa neanche a mangiare, e gira in tutti i campi d'Italia, sta con uno staff, diciamo, siamo passati da una gestione al tango, passiamo alla gestione al rock. Tutti convocati. Allora Pierluigi, Cruciani se n'è andato, parliamo un po' con gli ascoltatori, tra un po' libero anche te che c'hai da fare, so. Renzo da Imperia, Gabriele Teramo, Stefano da Pordenone. Renzo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti argomenti interessanti quelli che state affrontando quest'oggi, compresa la decurtazione degli stipendi per infortuni. Però io volevo parlare dell'argomento che avete toccato all'inizio con Pardo, il mercato. A proposito, anche auguri a Pardo per quello che può contare, sì, gli auguri. Certo. No, conta. Allora, conta. Lo consiglio, grazie. Un messaggio di speranza, grazie. attenzione, fa ancora in tempo a ripensarci. Ma perché? Ma non faccia, non faccia il cinico, non faccia il cinico, Renzo, su via, dica. Va bene, non parlerò della mia esperienza personale. Allora, il mercato del Milan. Il mercato del Milan, io vorrei dare un 7 meno meno a Galliani. Meritava molto di più dopo la cessione di Balotelli, dopo questi regali che si è fatto fare in giro per l'Europa di questi giocatori che secondo me hanno già dimostrato, stanno dimostrando insomma di essere valorosi, di valere, però non mi va giù la cessione di Cristante, perché se il Milan dice che bisogna puntare, che punteremo sui giovani del vivaio, Cristante, italiano, lo va a vendere, lo va a regalare, non a vendere, per 6 milioni al Benfica. Beh, giocatore di 19 anni non ha ancora fatto moltissimo Cristante, 6 milioni non sono pochi coi tempi che corrono, è un investimento sul futuro, ma però Renzo, io a me personalmente non dispiace, non parlo da milanista, parlo semplicemente da osservatore del calcio italiano, non mi dispiace il fatto, l'ho già detto ieri, che Cristante comunque vada a giocare nel Benfica in una squadra di prima fase, giocherà in Champions League, probabilmente sarà titolare, avrà uno spazio che qui anche nel Milan per motivi che non conosciamo, che conosciamo benissimo, non avrebbe avuto. Dunque sono molto contento di vedere Cristante nel Benfica, così come Immobile nel Borussia Dortmund con un grande allenatore, una squadra con grandi ambizioni. Sono contento di vedere Verratti nel Paris Saint Germain, e questo è l'altra parte, l'altra faccia della luna, l'altra faccia del discorso. Non possono giocare in Italia, andranno a giocare all'estero, e vanno a giocare all'estero in grandi squadre. Per questo io ho fiducia. Tu, Pier? Ma sì, io penso che il calcio italiano per salvarsi ormai. Il calcio ormai è talmente un business, per quanto la parola sia bruttissima, è talmente professionale che se ci salviamo come un movimento con le cose di cui parliamo quando parliamo di stadi nuovi, di merchandising, di introiti, di fatturati. Questa è l'unica possibilità che abbiamo. Poi i cicli storici, noi abbiamo una buona scuola complessivamente, certamente abbiamo una buona scuola tecnica, abbiamo un buon centro tecnico, e quindi poi ci sono fasi storiche, corsi e ricorsi, momenti più fortunati, momenti meno fortunati, ma noi dobbiamo crescere come movimento, perché oggi nel mondo del calcio chi ha vinto i mondiali? Guardate, negli ultimi anni i mondiali, guarda caso, l'hanno vinto sempre le squadre europee. C'è un livello diverso dei campionati migliori, nei campionati più importanti. Sì, ci sono più soldi, Pierluigi, ci sono più soldi, cioè, secondo me la grande differenza la fanno quelle due o tre locomotive che qui storicamente Milan, Inter e Juventus, come in altri paesi ci sono due o tre locomotive che vanno forte, noi non le abbiamo più quelle locomotive, cioè quelle locomotive non sono più in grado di mettere carbone, insomma, non hanno i soldi per essere competitivi. Secondo me non è con il protezionismo, no, capito? assolutamente. Anche perché poi puoi andare avanti 2-3 anni con un sistema del genere, a parte che non lo puoi fare probabilmente nemmeno dal punto di vista. Poi se proteggi i giocatori italiani, abbiamo avuto vari esempi in altri sport, se proteggi i giocatori italiani, se crei questo tipo di cartello, limitando cosa che stiamo parlando in astratto, cosa che non è possibile, stiamo parlando di professionismo, questo cosa vuol dire? Che i giocatori italiani, che già sono pochi, andranno a guadagnare molto di più rispetto a giocatori stranieri di pari livello o di livello superiore, perché io credo i proprietari non siano fessi, cioè se vanno a prendere un giocatore, fanno i loro interessi, guardano il livello del giocatore, quanto costa il giocatore, se lo vanno a prendere infischiandosene un po' dei passaporti, perché il discorso è questo, e a livello professionistico secondo me è giusto che sia così. Gabriele Teramo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì. Volevo farvi una domanda. Chi è che ha ordinato cosa? A pizza. A Conte di non convocare Balotelli? Sta vecchio oppure i vecchi della nazionale? No, visto che è il miglior attaccante che abbiamo, o nessuno di quelli di qui sopra, semplicemente esatto. Ha deciso così. Ha deciso lui, e secondo me il retropensiero, faccio un po' Freud, è un po' da paraculo, come quel film di Zone. Cosa che ci chiedono? Cos'è paraculo? Questa ragazza americana bellissima che sta uscendo con Carlo Verdone dice: cos'è paraculo? E lui che faceva finta di essere un prete, poi insomma, comunque, e paraculo è un avverbio, ecco, c'è questa famosa scena di acqua e sapone, nel senso che chiaramente quando è stato firmato questo contratto con metà dell'ingaggio pagato dalla Puma, Qualcuno parlava e pensava che ci potesse essere un'ingerenza nelle scelte dell'allenatore. Ora, lui è squalificato per una giornata. Probabilmente da un lato si vuole mandare un segnale al giocatore che dovrà conquistarsi, che non è sicuro del posto, e dall'altro si vuol far capire a Puma che non decide lei e all'opinione pubblica che non decide Puma. Questo secondo me può essere stato anche il pensiero di Conte. In generale io penso che Balotelli, se si comporta in maniera discreta, ha tante possibilità di tornare in nazionale. Non penso che Conte abbia deciso di rinunciare a Balotelli. No, io penso che Conte sia estremamente intelligente ed estremamente furbo, e quindi non rinuncerà ad un giocatore se sarà funzionale al suo gioco, se è un giocatore che gli può servire, e il mio pensiero non è molto distante da quello dell'ascoltatore. E al tempo stesso penso però che se non gli servirà Balotelli, non è che scenderà a compromesso con sponsor tech. No, quello non lo penso nemmeno io. Stefano da Pordenone, poi salutiamo Pardo e andiamo avanti un'altra ora, perché siamo tornati da ieri, due ore per l'amore, due ore per cantare. Due ore per cosa? Per le zanzare, non mi ricordo, le parole non ho ancora imparato. È una canzone di Teresa De Sio. Di rabbia, due ore maledette, due ore impietose, oscure e barbare, due ore per tenere il dolore alla catena e non sentire più niente che valga la pena. Due ore per guardarsi allo specchio. Meraviglioso. Sì. Fossi capace di cambiare la suoneria del telefono, la metterei, che tecnologicamente suona all'età della pietra. Stefano Pordenone, buongiorno. Sì, buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio per Luigi. Volevo tornare un attimo al discorso calciomercato, per uscire dallo sbadiglio del calciomercato italiano in cui si scambiano due gatti per un cane e anche gatti vecchio, per un cane. Allora le faccio una domandina. Yes. Allora, l'Hull City, squadra inglese di medio-basso cabotaggio, ha speso sul mercato 41 milioni di euro, ok? Milan, Inter e Napoli, tutte e tre insieme, quanti ne hanno spesi? Ah, non ho idea. Non seguo proprio il calcio italiano, non lo seguo. 43. Seguo 43. Ecco. Segue cosa? L'Udinese. Il calcio inglese. Mm. Sì. Dica. Io sapevo anche che una squadra che dalla Championship, cioè dalla Serie B inglese, va alla Serie A, in Premier, prende gli stessi soldi di una squadra italiana che va in Champions, no? Come diritti televisivi, eccetera. Cioè, questo è il parametro di confronto. Sì. Comunque, volevo un attimo chiedere il vostro parere sul mercato del Manchester United di quest'anno. A me la cosa che ha colpito è che, visto che entrambi penso siate appassionati come America inglese, la cosa che mi ha colpito è che fino a che c'era Ferguson, il calciomercato del Manchester era fatto con giovani, senza spese folli, eccetera, eccetera. Adesso si è passati, dopo un anno interlocutorio, chiamiamolo interlocutorio, al modello Real Madrid, cioè comprare grandi nomi. Sì, è vero. Voi cosa mi dite, come vostra decisione? Allora, innanzitutto ha speso 264 milioni di euro, quindi questo dice tutto. Insomma, probabilmente ha speso come l'intera Serie A. La strategia non è che si veda tantissimo, se non quella dell'accumulazione di talento, no? Cioè, è chiaro che prendi Falcao, prendi Di Maria, ti tieni Rooney, avevano già comprato una prima parte del mercato Herrera e Shaw, entrambi pagati con cifre vicine ai 40 milioni di euro. No, è un mercato folle, un mercato pazzesco. Tra l'altro l'inizio della stagione è stato piuttosto negativo, Van Gaal non ha avuto subito un grande effetto. Io ti dico, per la quantità di soldi spesa, secondo me si poteva far meglio. Cioè, no, più che altro non vedi esattamente dove vogliono andare a parare, se non il fatto di mettere lì appunto tanti giocatori di talento, cioè non, a differenza del passato Manchester United spendeva magari 100 milioni per Cristiano Ronaldo e poi non erano 100 ma erano meno, però lo inseriva in un contesto, in un progetto, eccetera eccetera. Questo guarda, United... ai Rooney. Van Persie, Falcao e Di Maria, cioè di chi stiamo parlando, mi sembra anche eccessivo per una squadra che fra l'altro non va dimenticato, quest'anno non fa le coppe, quindi è assolutamente uno sforzo economico secondo me superiore a quello che è il risultato ottenuto. Detto questo dobbiamo chiudere l'ora perché c'è GR. Pier, ci sentiamo domani, ciao, baci, abbracci, ciao Pierino. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Convocati. 2, 1, 2, 3, 4. buenas noches y me alegra que estén reunidos para este partido que es tan simbólico. Es un partido donde se resalta la unión de los equipos, la unión de los que están participando como espectadores, el deseo de todos, que es la paz. Minuti giocati, ero un po' stanco, ho 53 anni. Vabbè, ma sei l'eroe della serata e ancora sempre, diciamo, il numero 10 proprio. Sì, soltanto che Icardi non doveva giocare, però vabbè, comunque non ci sta quelli della, quello che ha fatto il le squadre mi avevano promesso che Icardi non giocava, ha giocato, per quello sono incazzato grande. Solo una battuta, che abbiamo vinto noi. No, abbiamo vinto noi perché Icardi non è della famiglia del calcio. E questo alla faccia della partita della pace, Diego Armando Maradona, cazzato. Icardi non doveva giocare, non fa parte della famiglia del calcio, quindi quei gol che ha fatto lui non contano. Marco Verinazzo, Sole 24 Ore, ciao. Ciao, buon pomeriggio, Carlo. Dieghito, l'abbiamo rivisto in campo, Icardi non ha gradito, ricordiamo il pregresso, storie che conosciamo, Maxi Lopez, attuale signor Icardi, e Dieghito che a quei tempi, se fossi stato tu, gli avrei spaccato la faccia. Con buona pace della partita della diciamo pace. Che l'etica negli spogliatoi negli anni 80-90 avrebbe imposto delle dure legnate altre cose, ai traditori, altre poi cose. Succedevano altre cose, insomma. Altro che non ti stringo la mano e forse te la ma lasciamo forse stare. Fama, pace. 800 24 00 24. Va bene, volete parlare di soldi, di mercato, di Premier League, degli acquisti folli del Manchester United? Marco Verinazzo è qui apposta. Stavo prima facendo questo conticino della serva che mi ha suggerito Franco Piantanini, il nostro autore. Al City, squadra media del campionato inglese, 41 milioni di euro spesi sul mercato. Inter, Milan e il tuo Napoli, 43 complessivi. Sì, qualcosina in più qualora dovessero esercitare alcuni diritti di riscatto, per esempio un Villa dell'Inter. In ogni caso, te ne do un altro di dato, il QPR ne ha spesi più di 50. Perché evidentemente la Premier è un campionato che va al di là ormai di qualsiasi parametro, nel senso che si avvia ad avere un fatturato di 4 miliardi all'anno. Quelli strani sono loro, quindi? Ma sono stati capaci in questi anni di creare, diciamo, un indotto commerciale enorme, sono stati capaci di sfruttare quello che era un naturale mercato televisivo. E peraltro consideriamo appunto che quasi la maggior parte dei diritti TV arrivano dall'estero per quanto riguarda la Premier, anche perché solo un terzo del campionato di fatto va in TV. È un'altra filosofia, un altro mondo, dobbiamo prendere quello che c'è di buono, in particolare per l'area commerciale, e il Manchester United ha dimostrato, magari possono sembrare acquisti folli, ma in realtà erano acquisti folli, però se consideriamo l'ottica appunto degli investimenti che alcuni sponsor hanno fatto sul Manchester United e la necessità di tornare comunque in Champions, quegli investimenti poi diventeranno remunerativi, perché il Manchester United si appresta a contendere al Real Barcellona il titolo, diciamo, di squadra con i maggiori ricavi in Europa, ad arrivare a 500 milioni di fatturato nel giro di un paio di stagioni. Questo indipendentemente dai risultati, così come finora anche Real e Barcellona sono andate avanti, hanno progredito dal punto di vista dei ricavi, quasi indipendentemente dai risultati, perché Real, vabbè, l'anno scorso ha vinto la Champions, però per anni non ha vinto, eppure è oggi, ed è da alcuni anni, la squadra con i maggiori ricavi in Europa. Cioè, ti aspettavi una politica diversa da parte del Napoli? Guarda, forse sì. Alla fine è bene che De Laurenti sia stato coerente con le sue decisioni. Cioè, il Napoli aveva una situazione di questo tipo: ha in cassa dei soldi, sì, una cinquantina di milioni. Tra l'altro, nel bilancio 2013 sono 27 milioni di liquidità. Quindi, non è vero che il Napoli non aveva liquidità per fare mercato. Il problema è che Napoli ha un fatturato di 120-130 milioni strutturali, cioè quelli che arrivano senza Champions e senza cedere Cavani o Lavezzi. Ma il livello degli ingaggi nel 2013-2014, lo vedremo quando sarà pubblicato il bilancio, tra ingaggi e ammortamenti, quindi quello, il valore che ti dà il costo della rosa, ha già superato i 100 milioni. Mm. E immagino che con Higuain, Mertens, Cadiano si è ancora superato. Sì. Quindi il margine di manovra era veramente poco per il Napoli. C'erano due scelte che poteva fare il Napoli: investire subito 30 milioni, quindi avere un bel centrocampista, un difensore importante e avere qualche chance in più di superare il preliminare e poi recuperarli quei soldi, o aspettare, oppure aspettare il preliminare ed eventualmente incassare e spendere i soldi incassati. Esattamente, sarà fatta questa scelta, poi per colpa dell'allenatore, per colpa della società, per errori madornali dei difensori, li abbiamo visti tutti, ma infatti si è arrivati a questo risultato. Ma io rimango convinto del fatto che la soluzione, che la strategia di De Laurentiis fosse quella corretta, cioè aspetto di vedere se posso permettermi qualche giocattolo nuovo e se posso permetterlo me lo compro, intanto quelli che ho dovrebbero essere necessari e sufficienti per passare preliminare. Quindi l'errore secondo me non sta lì per quanto riguarda il Napoli, e di questo rimango convinto. Prima di parlare con Silvio da Vicenza, 800 24 00 24, spiegami un arcano al quale non riesco da solo a trovare una spiegazione. Allora, il Milan sappiamo che da anni adotta questa politica. Ok, ultimo giorno arrivano un paio, due o tre giocatori per placare la folla e dare un po' di fiato alle trombe. Normalmente parametro zero, cioè normalmente giocatori che non vengono acquistati, però il monte ingaggi del Milan è spaventoso. Allora, perché il Milan decide di non spendere soldi per virgolette cartellini dei giocatori e poi ricoprire d'oro giocatori che magari hanno un grande passato e un incerto futuro? Beh, sai, il Milan ha comunque tagliato molto gli ingaggi, no? Erano oltre 200 milioni, in un paio d'anni hanno portato a 150 milioni. Lo so, però se vai a prendere Siena gli dai 2,5 all'anno o giù di lì, gli fai un contratto di 2,5, cioè, insomma, queste scelte sono effettivamente incoerenti, però la strategia dettata dalla casa madre Fininvest è autonomia finanziaria. Il Milan partiva da un meno 15, meno 16 al bilancio 2013, incassa di solito, non fa una grandissima plusvalenza con Balotelli, però in ogni caso riesce a fare un mercato in cui gli entrano dei soldi, riesce a fare cassa. Probabilmente l'anno prossimo avrà un bilancio vicino allo zero, quindi il mandato Galliani lo ha rispettato, e dopodiché fa una serie di operazioni apparentemente poco coerenti con un progetto, per esempio sui giovani, no? Pensiamo a Cristante. Però credo che sia stato in qualche modo obbligato Galliani a fare certe scelte incoerenti dalla gabbia, diciamo, salariale, dalla gabbia dei finanziamenti che non arrivano più dalla Fininvest e dalla situazione debitoria comunque preoccupante, perché il Milan ha oltre 250 milioni di debiti ai quali comunque dover far fronte pagando gli interessi ogni anno. Certo. E dunque si fa di necessità virtù. Dopodiché, sai, aver portato a Milano Diego Lopez, Alex Menez, Torres, Van Ginkel, Bonaventura, che comunque un acquisto di prospettiva di fatto a costo zero. Ma no, sulla stessa lunghezza d'onda è l'Inter, cioè l'Inter ha fatto un mercato di questo tipo, l'hanno denominato mercato impatto zero, che mi sembra una definizione che rende, però non va a prendere giocatori che hanno un ingaggio mostruoso. L'Inter, in questo vedo la differenza, allora lì capisco, qui no. Però l'Inter si è costretta in qualche modo da questo piano di rifinanziamento che ha fatto Toir, quindi deve restituire 230 milioni o qualcosina in più in 5 anni, deve in qualche modo arrivare subito a riportare il brand Inter al centro della scena europea, e in questo senso per esempio l'Europa League potrebbe essere una strada intelligente da percorrere anche finanziariamente, perché con il market pool che ha l'Italia, con i diritti TV che ha l'Italia, arrivare per esempio già in semifinale ti potrebbe garantire 10-15 milioni. Mi sembra che l'altro giorno si facevano i conti con Giovanni Capuano, la Lazio l'anno scorso abbia beccato 9 milioni di euro che sono una bella cifretta. Anche la Juventus che è arrivata in semifinale, la Juventus ha preso 7 milioni ma aveva poi altri circa 40 milioni o qualcosina in meno dalla Champions. Però è chiaro che evidentemente la Champions, una squadra italiana, a parte forse la Juve, ci auguriamo che non sia così, ma a parte la Juve, diciamo, verosimilmente nessuno la fa in Italia con la speranza, insomma, di arrivare in semifinale. L'Europa League invece può essere una strada più percorribile, interessante anche perché c'è l'accesso diretto in Champions per chi la vince, e dunque si sta percorrendo questa strada. Delle mosse intelligenti che ha fatto l'Inter, per esempio, in questo calciomercato, notavo, è il fatto di aver concesso molti prestiti dei suoi giovani, onerosi, quindi incassando magari 500.000-400.000 euro, e in questo modo ha messo insieme un bel gruzzolo. Certo, l'Inter è stata bloccata poi dall'affare Guarin, lo abbiamo letto, lo abbiamo visto, però la cantera, diciamo, nerazzurra sta iniziando a produrre un po' di risultati, se non sul campo, perlomeno in termini Milan, anche quella del Milan, perché insomma il Milan ha investito sul settore giovanile, sai anche tu, pochi anni fa, 2-3 anni fa, adesso sta cominciando a raccogliere qualche frutto. È chiaro che è un percorso che ti richiede del tempo. Silvio, buongiorno. Buongiorno. Volevo condividere velocemente con voi una piccola analisi finanziaria, perché al di là del fatto che ormai l'Italia è un'ignobile decaduta dal punto di vista economico, non capisco perché non si parli più di fair play finanziario, tenendo conto che i club, a partire dal City e Real Madrid e così via, che fanno queste campagne acquiste faraoniche, hanno dei livelli di indebitamento netto enormi. È evidente che anche gli enormi valori con cui i giocatori sono stati acquistati, parlo di Di Maria, ma anche Bale e anche Falcao, sono assolutamente spropositati, ma sono funzionali al fatto che creano delle grosse passività sul conto economico, ma creano delle grosse attività sullo stato patrimoniale, perché vengono poi valorizzati come patrimonio. Ed è con lo stato patrimoniale che poi si va a trattare con le banche e con i finanziatori e gli sponsor per avere investimenti. Però tutto questo crea un drogaggio incredibile del sistema, perché allora se noi permettiamo a questi club di giocare su queste speculazioni, noi invece facciamo i puri e andiamo dietro effettivamente ai bilanci in pareggio, non riusciremo mai perché a lo vogliamo oppure no? Questo non lo so, è la domanda che faccio a voi. Beh, lo vogliamo e in parte siamo costretti a farlo. Molti si sono nascosti dietro il fair play finanziario. Esatto, però, questa è l'impressione che ho avuto io. Però c'è da dire una cosa, che il fair play finanziario non pone limiti a squadre che hanno utili, che hanno fatturati come quelli del Real Madrid e Barcellona, lo ricordavamo, di 500 milioni e che possono permettersi questi acquisti, anche perché se hai 500 milioni puoi anche permetterti di avere un costo della rosa di 300 milioni e non succede nulla, tant'è vero che queste squadre chiudono quasi regolarmente il bilancio in attivo. Poi ci sono tante altre questioni su cui potremmo aprire un dibattito, ma per il momento le lasciamo stare. Invece il problema finanziario ha funzionato, perché se ci ricordiamo quello che City, Paris Saint Germain o Monaco hanno fatto nelle ultime campagne acquisti, andiamo a vedere invece il bilancio di quest'anno, ci rendiamo conto che quei limiti che sono stati fissati dalla UEFA con le sanzioni applicate questa primavera hanno funzionato. Il Paris Saint Germain ha fatto solo David Luiz, una 50 milioni, quindi è rimasto sotto il tetto di 60 milioni, e il City ha fatto una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine il saldo negativo è di appena 30 milioni, quindi lì ha funzionato. Quindi anche loro hanno fatto attenzione. Assolutamente, era necessario, perché al prossimo giro la UEFA non sarà sicuramente clemente. Senti, ma dal quindi punto di vista, prima di Fabio D'Acuna, dal punto di vista normativo è possibile un ragionamento come quello adombrato proposto da Conte, eventualmente con il Ministero di Tavecchio, cioè ridurre il numero di sti benedetti stranieri in Serie A? Molto molto complicato. Del resto c'è una normativa che riguarda non europea, solo il calcio e lo sport. Certo, se passasse, come alcune volte si è tentato di fare, il concetto di specificità dello sport nell'ambito del Parlamento europeo, nell'ambito della legislazione sportiva europea, dei margini ci sarebbero, almeno per favorire, come dire, la possibilità di impiegare, o l'obbligo per meglio dire, di impiegare giocatori formati nel vivaio. Il problema è che se andiamo a guardare i vivai delle squadre italiane, sono piene di stranieri. Il vero problema è quello, non è tanto l'impiego di giocatori stranieri nelle massime serie, è il problema dei vivai, delle primavere, o peggio ancora, insomma, delle squadre ancora di categorie inferiori, che sono piene ma comunque giocatori stranieri. Sono contro i cartelli. Al massimo livello dello sport io sono favorevole alla totale libera circolazione, libera scelta dei giocatori. In questo periodo sempre l'esempio della Spagna. La Spagna, a parte le realtà del Real Barcellona, aveva ha ha tuttora una situazione molto complicata per quanto riguarda gli altri club, molti dei quali sono sull'orlo del fallimento, sì, sì, sì. E da alcuni anni ha adottato una politica diciamo volta a ripristinare l'equilibrio di bilancio attraverso le cessioni. Sono tantissimi i giocatori che dalla Spagna sono andati in Premier anche in questa sessione. Però gli spagnoli, grazie alle squadre B, grazie alle cantere, sono capaci di sostituire questi giocatori con altri giocatori spagnoli. I nostri Verratti, i nostri Cerci, i nostri Immobile, nel momento in cui vanno all'estero non hanno sostituti pronti in Italia, perché se andiamo a guardare, e lo ha detto anche Conte l'altro giorno, e poi il numero di giocatori italiani come dire arruolabili in nazionale per qualità oltre che semplicemente per la carta d'identità e la nazionalità, ci rendiamo conto che la situazione è davvero drammatica. E allora forse sarebbe più utile, diciamo, una sorta di accordo tra Lega e Federazione, una sorta di gentleman agreement tra tutti i componenti del sistema per portare avanti determinate politiche, perché intervenire a livello normativo non credo sia al momento l'unica soluzione possibile. Appunto, sarebbe un accordo tra loro signori che si autoregolamentano e dicono ok, va bene, ma perché lo decidiamo noi? Mettiamo un limite al numero di stranieri impiegabile. La vedo molto difficile e non mi piace neanche moltissimo come soluzione, a dire la verità. Fabio Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Parto da questo ultimo punto. Io sono dell'idea che è giusto far giocare i ragazzi giovani italiani. Il problema è che quando un giovane italiano dalla primavera fa 2, 3, 4, 10 presenze diciamo in Serie A, la richiesta dal minimo sindacale passa ai 100-200 mila euro subito d'ingaggio, quindi gli stranieri probabilmente costano poco e fanno arricchire quella massa di procuratori che girano intorno al calcio. Un altro punto, io credo il bilancio della Serie A, se non sbaglio, a livello di introiti televisivi è circa 1 miliardo, giusto? Sì. Forse il 50% è diviso fra 5-6 squadre che aspettano solo i soldi delle TV per aumentare gli stipendi, quindi come in questo caso avete parlato prima del Milan, quindi nessun tipo di programmazione. Dividerle in maniera più equa, come forse è successo in Germania negli ultimi tempi, mi sembra, se non sbaglio, e quindi è diventato un campionato molto interessante con stadi pieni, non potrebbe portare quindi squadre come il Cesena piuttosto che il Sassuolo, il Cagliari, ad avere rose più competitive, riempire gli stadi e portare nuova gente allo stadio? Perché io da tifoso di una di queste piccole, se so che lottiamo per la salvezza, magari sto a casa la domenica, se so che lottiamo per qualcosa di più, abbiamo visto il Torino in Europa League, stadio pieno, quindi forse partire già da un'idea di dividere gli introiti, le grandi questo, si accontenteranno. Questo è un vecchio discorso, ma non so, il problema è che non si accontenta nessuno, perché le grandi dicono tu fai cassetta perché ci sono io, altrimenti non faresti. Sì, tra l'altro appunto se andiamo a guardare la forbice tra la squadra che prende di più e quella che prende di meno, l'Italia è sicuramente il paese in cui c'è una sproporzione maggiore. In Inghilterra abbiamo parametri molto più equi. Sì, però lì c'è la storia dei diritti, della commercializzazione dei diritti televisivi nel mondo, che è quello il forziere da per cui esempio, le squadre inglesi prendono il grano. Pochi sanno che quella fetta lì, che si avvicina da sola al miliardo di euro, quasi 900 milioni, viene divisa esattamente in parti uguali tra le 20 squadre della Premier. Esattamente in parti uguali. Il Manchester prende quanto il QPR prenderà o quanto l'Hull City. Questo per sottolineare come criteri meritocratici servono. Però il Manchester può contare su una fetta di ricavi dall'area commerciale di 150 milioni, da noi chi fa meglio, il Milan si ferma a 80, la Juve a 60, il Napoli arriva a 30. È chiaro che cioè, la dipendenza dei diritti TV nasce dall'incapacità di creare ricavi alternativi. Ora faccio questo esempio che lo trovo molto calzante tra Napoli e Atletico Bilbao. Napoli ha un fatturato strutturale, l'ho detto, 120-130 milioni, che è circa 40-50 milioni in più dell'Atletico Bilbao. L'Atletico Bilbao in questi anni però, negli ultimi 3-4 anni, ha diciamo finanziato la costruzione dello stadio con 50 milioni e i ricavi da stadio dell'Atletico Bilbao sono 30 milioni nell'ultima stagione 2013, esattamente il doppio del Napoli. Questo per dire come è un circuito vizioso quello in cui il calcio italiano si è ficcato e spero davvero che l'esempio della Roma possa servire a invertire un po' questa tendenza. Ad esempio la Roma mi riferisco allo stadio, anche alla capacità per esempio di Sabatini di generare 50 milioni di plusvalenze l'anno scorso. È stato bravo Sabatini, siamo sempre lì, quelli bravi riescono comunque ad operare con i soldi che hanno e a fare a loro volta del denaro eccetera eccetera. È una questione di competenze alla fine. Esattamente. Quanto allo stadio della Roma voglio vederlo, perché vediamo tra qualche giorno insomma dovrà essere dato il primo via libera, diciamo, dal consiglio comunale. Tu sai bene come tu vai in Germania e dici ok, questi sono i soldi per fare lo stadio, lo fai, cominci i lavori il giorno dopo. In Italia è una storia diversa, e non solo per gli stadi, caro Marco, lo sai benissimo. Daniele Venezia, buongiorno, poi ci vediamo per la borsa. Daniele? Sì, sono qua, gente, ciao. Dimmi, ciao. Senti, io su questo tema che state parlando, che bisogna favorire i giovani, però non ho ancora sentito una proposta seria. I giovani cominciano da bambini. I bambini dove cominciano a giocare a calcio? Nella parrocchia, nel paese vicino. Però io sono un padre che ha un bambino che gioca a calcio. Sai qual è il mio problema? Che l'allenatore della squadra non sa fare l'allenatore. Quindi la Federazione Italiana Gioco Calcio dovrebbe aiutare le società a insegnare, a dare un patentino di allenatore a quelli che vogliono fare gli allenatori di squadre. Sì. Allora cominci da quando hanno i 6-7 anni. No, ma questo è un discorso chiaro. Questo a allenarli chiaro. Come deve essere. Lo se cominciamo, dobbiamo cominciare dalla base. Sono d'accordo. Questo è un discorso molto profondo che si riduce alla fine in una parola: investimenti. Perché se tu hai un settore giovanile e davvero vuoi provare a produrre giocatori, la prima cosa che fai qual è? Prendi degli allenatori professionisti, degli allenatori che abbiano grande competenza. E quello che dico io è una mia vecchia battaglia, un mio vecchio pallino. Ci sono molti allenatori anche di nome che sono a spasso, che fanno fatica a riciclarsi eccetera eccetera. Perché non ingaggiarli per i settori giovanili? Molti di questi diranno no, non mi interessa, alleni grandi, punto e basta. Altri invece potrebbero essere interessati a questo tipo di soluzione. Sì, c'è anche il grande tema del rapporto per esempio tra federazione e scuola, no? È uno dei temi che è passato un po' sotto traccia perché insomma c'erano un po' di polemiche, diciamo, su il tipo ortofrutticolo quando è stato eletto il presidente della FIGC. Però questo è un grande tema, cioè in Germania, non per citare sempre la Germania, ma purtroppo dobbiamo farlo perché lì dopo il fallimento dell'Europa 2000 si è anche posto questo problema con la creazione di percorsi formativi ed accademie. Insomma, torniamo sempre al punto degli investimenti. Le scuole italiane in media investono il 3-4% del fatturato sui vivai e capirà insomma di questo passo poco si riesce a costruire. Ci fermiamo per la borsa, stai con me Marco? Sì. Dai, altra mezz'oretta insieme, parliamo con gli ascoltatori, 800240024 e poi aspettiamo un ospite, a proposito di allenatore, con cui sono molto curioso di parlare. Tutti convocati. Allora, caro Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, il signore con cui avevo una gran voglia di parlare è Beppe Sannino, che a sorpresa ha lasciato il Watford, squadra di Serie B inglese, è arrivato l'anno scorso, eccellente finale di campionato, 4 vittorie nelle prime 5 partite e poi ha lasciato la panchina. Io voglio semplicemente chiedergli perché. Beppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché? Perché io sono un allenatore così, cioè non devo sentire il fuoco dentro, non è che non ce l'avessi, però ho dato tantissimo, però poi volevo vedere la mia faccia sul campo e la squadra che avesse i connotati della mia personalità. E questo, anche se vinciamo, anche se abbiamo vinto, però non vedevo questo e secondo me è giusto, sì, abbia fatto un gesto del genere, un passo del genere, ma parlando molto con il presidente, che è una persona straordinaria, mi ha capito e noi parliamo già da 15 giorni di questa situazione, sì, qua, e niente, quando dopo l'ultima partita già per lo scorso abbiamo vinto, io sono rimasto di questo avviso, ma anche per il bene di questo club, perché sicuramente hanno speso tanto, hanno investito tanto e sicuramente meritano di andare su. Sì. In questo momento credo che con Sannino, senza l'ardore, forse veniva a mancare qualcosina di tutto che... Cioè, già gli allenatori che si dimettono, gli allenatori che si dimettono sono merce rarissima. Gli allenatori che si dimettono vincendo ed essendo primi in classifica, beh, credo uno dei pochi casi dell'ultimo decennio, no? Sì, credo di sì, va dato atto a Sannino questa scelta umana e professionale. Sì. E tra l'altro, insomma, ha rinunciato anche a una bella esperienza, perché il Watford già due stagioni fa ha perso la finale per andare in Premier, e comunque è stato costruito dai Pozzo per ambire alla Serie A inglese. Immagino, insomma, che sia già una bella esperienza allenare in Championship. Insomma, sarebbe stato forse un sogno allenare in Premier, o no? Beh, io credo che l'esperienza che ho vissuto in questi 8 mesi, che sono 8 mesi che sono qua, è un'esperienza che forse un po' tutti vorrebbero vivere. Io l'ho vissuto proprio a 360 gradi, credo di essere entrato anche nel cuore e nella testa dei tifosi. E un calcio che sicuramente mi mancherà il sabato, che è davvero uno spettacolo. La partita, quella è la cosa che mi mancherà di più, perché gli stadi sempre pieni, tantissima gente che non ho mai visto una volta dire una frase fuori posto, né agli avversari, né ai propri venieri, ai propri giocatori, e questo sarà quello che mi resterà dentro. Però sicuramente io dico mai dire mai, ma in questo momento torno indietro e aspetterò. Con credito, con un bel credito, ma è possibile spiegare a parole qual è la distanza tra il campionato di Serie B italiano e, per farla semplice, il campionato di Serie B inglese? Campionati che lei ha frequentato entrambi, è possibile spiegare questa distanza o ce n'è troppa? No, io credo che... Noi pensiamo sempre che il giardino, gli altri siano sempre più verdi. Io credo che qui in Inghilterra hanno molto più di noi sotto l'aspetto dell'organizzazione, merchandising, stadi, la cultura di andare della partita e quella voglia di correre sempre per 90 minuti. Però non dobbiamo dimenticare anche che per me l'Italia, secondo me, ha dei grandi calciatori, dei grandi allenatori, e noi potremmo, se si potesse accomunare tutte le cose, noi, i nostri pregi e i loro pregi, verrebbe fuori una nazione fortissima, grandissima. Sì. Sì. Però dobbiamo convivere con pregi e difetti, e quello che veramente mi è mancato è il fatto di quello che in Italia noi tutti allenatori cerchiamo di fare, dall'organizzazione, delle nostre conoscenze, il modo di interpretare il calcio. Qui forse è un pochettino più libero, più, che vuole esprimere le proprie qualità singole, non in un contesto organizzato. Sì. Io ho sentito un'intervista di Mourinho che diceva: in Inghilterra, penso che l'avete sentito anche voi, in Inghilterra io sono sempre quasi convinto di poter vincere tutte le partite. In Italia invece ero quasi sempre convinto, potevo perdere contro chiunque, nel senso che giocavo contro una squadra di Serie B, poteva mettermi in difficoltà. Sì, sì, e sì, questa è un po' la differenza. Tutto oppure c'è la mentalità, qui gioco per il pareggio, là gioco per non prenderle. Qui giocano, io difatti l'anno scorso ho perso, credo, 12 punti, 10-12 punti, dal 90esimo al 95esimo. Questo fa capire che loro fino alla fine continuano a correre, ci credono, però sicuramente io credo che un qualcosa anche noi abbiamo sotto l'aspetto dell'organizzazione, io parlo sul campo della squadra, da poter anche insegnare. Poi loro ci insegnano in tante cose fuori dal campo, dove lo sapete benissimo anche voi come si vive la partita, certo, come si va allo stadio, certo, insieme. Certo. Come, e questo come mi piacerebbe vederlo anche in Italia, perché davvero noi siamo degli ottusi, noi potremmo essere davvero una grande nazione, però facciamo sempre Sì, dobbiamo fare i conti con i nostri difetti, che sono in buona parte, forse sarò pessimista, ma ineliminabili. Io volevo chiedere ancora questo: stiamo discutendo e stiamo facendoci una testa così anche con le parole di Conte, eccetera, in Italia giocano pochi italiani e bisogna magari proteggere i giocatori italiani e bisogna magari limitare il numero degli stranieri impiegati al campionato italiano, tutti discorsi di questo tipo, e io ogni volta penso all'Udinese. Lei ha lavorato per Pozzo al Watford, sì. Ha un sistema di produrre calcio e di produrre giocatori e anche di produrre denaro molto diverso da questo, appunto. E allora come la mettiamo? Devono giocare gli italiani o devono giocare quelli bravi? Allora, io credo che la famiglia Pozzo sia una famiglia che ormai è sulla bocca di tutto il mondo per quello che ha saputo fare, quello che fa, quello che continua a fare. Poi io ho conosciuto Gino Pozzo, è una persona straordinaria, è un manager, è un presente manager, ma vive 24 ore su 24 con la propria squadra. Io quando lavoravo qui, al mattino alle 9 il presidente era già nel suo ufficio e stava lì fino alle 4 del pomeriggio. Uh-huh. È un presidente molto attivo. Però quello che vorrei dire, i grandi calciatori italiani o stranieri, è giusto che giocano i più bravi. Esatto. Secondo me. Però sono anche d'accordo con Conte quando si dice che forse si è abusato anche un po' troppo, no? di stranieri. Allora io le spiego: in Inghilterra, la Championship, il mio campionato, noi dobbiamo avere nella lista minimo 6 inglesi nati in Inghilterra, nella lista di 18, non dei 23, perché siamo in 18 ancora in panchina. Uh-huh. Perciò anche questo secondo me è un dato di fatto importante, dare degli input dove tu devi per forza avere 10-15 giocatori nella rosa della nazione. Uh-huh. E 6 devono essere o tra panchino o tra campo nei 18 che vanno a giocare la partita. Sì. Questo potrebbe essere anche un deterrente, penso, però poi alla fine credo che è giusto che giocano sempre i migliori, e i migliori, sì, devono farlo vedere durante la settimana. E io quando Conte, sento parlare Conte, io mi avvicino un po' anche a lui come carattere, come dice da me, non voglio fare paragoni, però caratterialmente mi sento vicino un po' a Conte, a lui. E lui quando parla lo fa per il bene della nazione, fa bene per il bene dell'Italia, sì, anche perché negli ultimi anni la nazionale è sempre partita con buoni propositi, però poi alla fine è un po' arenata. Io credo che con lui sicuramente avremo un futuro. La scelta in questo momento era la scelta più corretta, anche per ragioni di immagine. La nazionale italiana così depressa ha bisogno comunque di un allenatore dall'immagine vincente, e in questo momento conterà quello che va più da spendere da questo punto di vista. Grazie Beppe Sannino. Io ringrazio voi. In bocca al lupo Beppe Sannino. Certo, Marco, lasciare una squadra prima in classifica, sì, è una cosa, è qualcosa di bizzarro. Aveva battuto il Leeds, mi diceva prima Franco Piantanida, il Leeds di Cellino 4-1, 4 fischi a 1. E Cellino non aveva esonerato il suo allenatore. No, questa è la notizia vera. Allora vedremo Sannino al Leeds quanto prima. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo a parlare con gli ascoltatori. Tutti convocati. Che avevo bisogno di qualche partita per entrare in fiducia e sono contentissima, il risultato per me è pazzesco, essere nei quarti, non l'avrei mai detto, ovviamente all'inizio quando ho visto il tabellone era veramente pensato mamma mia è durissima, già passare un turno sarebbe pazzesco per me, alla fine sono ancora in gara nei quarti, quindi sono contentissima delle partite che ho fatto, di come sono arrivata. Allora, abbiamo due ragazze, è bene ricordarlo, nei quarti di finale in America, gli US Open. Sara Errani, che giocherà oggi con la danese Wozniacki. Tre precedenti, 2-1 per l'avversaria di Sara. Grandissimo risultato, comunque già quello ottenuto. Nella notte si è qualificata per i quarti di finale a Flushing Meadows anche Flavia Pennetta, che domani giocherà i quarti con Serena Williams. Un applauso comunque vada a questo punto, doveroso per tutte e due. 800 24 00 24, numero verde. Marco Bellinazzo sempre qui con me, adesso ci spiega un po' di numeri su Roma e Juventus in particolare. A proposito, la Roma è quella che ha speso di più sul mercato italiano, 55 milioni di euro complessivi. È chiaro che rimangono altri parametri, cui, ok, abbiamo speso 55, la City 41, o la Roma, sì. Enrico Cuneo, buongiorno. Pronto? Pronto, mi dica. Buongiorno, volevo fare due considerazioni. Io, il mio figlio è nella giovanile della Juventus. Ho sentito prima dire che a 6 anni bisognerebbe insegnare, già avere l'allenatore che insegna calcio ai bambini. Io dico che a 6 anni bisogna avere degli educatori a insegnare a stare insieme, a divertirsi ai bambini. Mio figlio ha 12 anni e ancora adesso nella Juve insegnano prima a essere sportivi, a essere educati, anche se sento commenti. Enrico, ci vuole un po' di tutto questo. Io credo che a quell'età sì, debbano anche però divertirsi. Però 6 anni non mi possono dire insegnare allenatori preparati col patentino. A 6 anni ci va. No, però ci vogliono, Enrico, sì, però ci vuole, perfetto, ci vuole gente che sappia educare, però ci vogliono dei professionisti, se vogliamo, anche da quel punto di vista. Della gente preparata ad allenare sotto ogni aspetto, compresi quelli che lei giustamente sottolinea, abituati ad allenare ragazzi di quell'età. Quindi secondo me il grande investimento è sul fronte degli istruttori / allenatori. Poi sono d'accordo che a 6 anni non si insegna il 4-4-3, queste cose qui. Si insegna a divertirsi, a stare insieme, a rispettare le regole del gruppo e si insegnano i fondamentali del gioco. A mio parere l'idea è questa: tattica zero, perché a quell'età non serve. Le altre cose invece sono fondamentali, ma rimaniamo sempre lì. Non si può dare in mano magari un gruppo di ragazzini di 6 anni a un altro ragazzino che magari di anni ne ha 15 e che ha preso patentino, che guadagna 200 euro e che giusto per uscire sabato sera con la fidanzata. Questo non è un discorso. Se invece vogliamo investire sul settore giovanile, allora prendiamo degli istruttori / allenatori che siano preparati a fare quel tipo di mestiere, questo è evidente. Marco, mi dici di Juventus e Roma? Beh, sono indubbiamente le due regine del calciomercato, almeno per quanto riguarda l'Italia. Hanno fatto, diciamo, delle operazioni non soltanto sul presente, in particolare la Roma, ma anche sul futuro. In qualche modo la Roma già prepara dolcemente il dopo Totti. La Roma, come ricordavi, ha speso 50 milioni, che potrebbero diventare 30 nel caso in cui venissero poi esercitati tutta una serie di diritti di opzione, in particolare per Uccianna, piuttosto che per Astori, ma ne ha incassati quasi 40. L'operazione Benatia in questo senso è sintomatica di quello che la Roma ha fatto e di come Walter Sabatini sia stato, diciamo, bravissimo in questi anni a costruire una squadra forte e a salvaguardare i conti della Roma. Anche la Juve ha speso tantissimo, è passato un po' sotto traccia quello che la Juve ha fatto, ma la Juve ha investito 40 milioni e potrebbero diventare 20 anche qui nel caso poi dei riscatti, per esempio per quanto riguarda Pereira e Romulo, e ha incassato una trentina di milioni cedendo Immobile, Quagliarella, Peluso, Vucinic, Isla, e anche facendo un'operazione molto intelligente su Zaza, che è stato di fatto ceduto al Sassuolo a 7,5 milioni, ma la Juve si è riservata la possibilità di poterlo ricomprare qualora, diciamo, il giocatore esplodesse. Esatto, mi sembra una cifra, giusto? Sì, intorno ai 10 milioni, potrebbero diventare 20 in base a tutta una serie di parametri. È chiaro che diciamo Conte in qualche modo già accontentato la Juve, sta facendo felice il Sassuolo perché ha subito convocato Zaza, e però se lo merita con il gol ampiamente dimostrato. Tu sottintendi questo favoritismo di Conte alla Juventus? No, io credo che Conte sia un allenatore, so dove andare a parare. No, non io, No, molti, dove... ma molti maliziosi, ecco, adesso allenatore della Juventus. Non c'entra la Juve, non c'entra la Puma nelle convocazioni. Penso che Conte, diciamo, abbia soltanto da guadagnare facendo bene con la nazionale, perché una delle sue pecche, che forse gli è costata per esempio la panchina del Manchester United per la quale poi è stato scelto Van Gaal, è la sua scarsa esperienza a livello internazionale, perlomeno in quanto allenatore in confronto con Van Gaal. Fare bene con la nazionale potrebbe effettivamente aprirgli le porte di quelle, certo, big europee alle quali giustamente aspira per quello che ha fatto in questi tre anni in Italia. Roberto Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. Nulla, volevo parlare, spero di essere telegrafico, di due fattori, che sono: uno, lo stadio, che prima sentivo parlare degli stadi in Italia, e l'altro è il più che il settore giovanile, cioè più che la ricerca del campione in assoluto, è quello di cercare nei giovani, secondo me, la voglia, la volontà di crescere, che è la parte più importante. Te lo dice uno che non ho giocato ad altri livelli, ma tuttora gioca, anche se ha 46 anni, quindi è la voglia che mi spinge a giocare. Per lo stadio vi faccio un esempio, quello di Piacenza. Cioè, in Italia, credetemi, è il ricatto, bello e buono, fa andare avanti certi progetti. Voglio dire, a Piacenza il ricatto è stato: fate una squadra unica tra Piacenza, che fa la C, e il Piacenza, che fa i regionali, oppure lo stadio, il Galleana, che ormai cade a pezzi, noi non tiriamo fuori neanche 20.000 euro. E questo è un fatto. Quindi, secondo me, rapportato per una grande città come Roma, uno ma ci sono molte, ma ci sono molte variabili in questo discorso. Una può essere questa, altre possono essere i piani regolatori, altre possono essere le aree di sviluppo, eccetera. Guarda, a volte non ti fanno fare un garage a casa tua, e ti fanno fare magari a 100 metri un grattacielo dove ci sono delle, certo, case. Lo so bene. Immaginati un americano, un cinese, un thailandese, un coreano, o quello che vuoi, che viene qui e cerca di costruire uno stadio. Quindi questo è, io so bene, non parlo a vanvera quando dico delle enormi difficoltà sotto mille aspetti di maneggiare la situazione italiana. C'è la legge di stabilità che ha previsto un percorso molto accelerato, sì, e in qualche modo ha funzionato, perché diciamo nel progetto inizialmente presentato dalla Roma, rispetto poi a come saranno arrivati, diciamo, i documenti del Consiglio Comunale, c'erano alcune differenze, diciamo, cubature un po' troppo elevate, poca attenzione alla viabilità. Sono stati posti dei paletti, sono state poste delle condizioni, e questo in qualche modo significa che gli equilibri sono stati rispettati, che non si eviteranno speculazioni, ma allo stesso tempo si eviteranno lungaggini infinite che determinano di fatto poi la morte dei progetti. Certo. Per cui diventa fondamentale che lo faccia la Roma, perché può essere appunto il primo caso e indurre altre squadre. Per esempio il Napoli deve presentare entro marzo un progetto di ristrutturazione del San Paolo, magari chissà De Laurentiis ha risparmiato anche per quello, me lo auguro, perché sarebbe insomma un atto importante per lasciare qualcosa al Napoli e creare qualcosa anche di, San Paolo mi sembra di patrimoniale. Ristrutturando, chiaro che eventualmente puoi fare come hanno fatto a Bilbao, cioè lo lasci il ricordo e costruisci in quel luogo cui sei affezionato qualcosa di lì. C'è un'area enorme, insomma, accanto al San Paolo, che si potrebbe valorizzare e sarebbe, insomma, di fondamentale importanza per l'intera città. De Laurentiis dice sempre che a Napoli non c'è niente, c'è solo il Napoli. Ecco, potrebbe dare l'esempio e costruire qualcosa per Napoli che vada al di là della rosa dei giocatori. Paolo Bologna, abbiamo un minuto, dica Paolo. Pronto, è un minuto poco, comunque ci provo. La storia, una volta quando ero giovane, io ho 50 anni, andavi nella squadra del tuo paese, della città, facevi il provino, se eri bravo dentro, se eri scarso fuori, io fuori sinceramente, sì. Comunque fa niente. E sono cambiate tante cose, ci sarebbe da parlare delle sponsorizzazioni sportive, come funzionavano, generavano nero agli sponsor, però comunque davano un po' di denaro alle squadre che andavano avanti. Ora o perché la finanza ci ha messo il naso o perché non ci sono soldi, le squadre giovanili ora delle varie età hanno mediamente raddoppiato il numero dei bambini e ragazzi che giocano, perché pagano, e non pagano poco, sì. Perché all'anno 5, 6, 7, 800 euro all'anno un bambino, sono cifre molto elevate per far giocare i nostri ragazzi, questo lo so bene, ci sono un sacco di distorsioni, ma il nero era una di quelle, cioè non puoi dire allora c'era nero, i settori giovanili stavano in piedi e si stava meglio allora, perché questo non è civilmente accettabile. Marco Beninazzo, grazie. Grazie a te, a presto. Sei sempre convocato quando vuoi. Grazie a Franco Pietrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao! Che cosa hai fatto alla macchina? Sono informazioni che condividerò solo a determinate condizioni. Sentiamo. Un posto garantito nel team e un contratto alle stesse condizioni di Regazzoni per 2 anni. Ma sei matto! Clay è un veterano della Formula 1. Tu sei l'ultimo arrivato. Ti abbiamo preso solo perché sei tu a pagare noi. Bene, ma adesso, se vuole che resti, strappiamo il contratto. Io non le do un centesimo. Ma questo è un oltraggio! Era più veloce con la mia? Ha girato in 2 secondi in meno? 2,3. Allora, lei ci pensi, valuti le sue priorità e poi mi chiami.